un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti, siamo in diretta, sono 7 minuti dopo le 12 con l'appuntamento che dedichiamo ogni sabato all'Europa delle storie, l'Europa delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo subito le coordinate se volete interagire con noi anche virtualmente: chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale su Facebook e Twitter, per ritrovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, oppure i nostri siti radio24.it, da cui poter poi riascoltare la puntata, trovare tutti gli europostite, trovare tutte le segnalazioni che diamo, o ancora euronetplus.eu, invece il portale che racchiude tante inchieste, tante notizie, tante reportage in tante lingue diverse. Ok, queste sono le coordinate, come ogni settimana un viaggio. Oggi parleremo di tante storie belle, anche molto creative, quindi credo che sarà una bella oretta per avere tanti spunti e tante idee, anche replicabili, perché la cosa bella di queste buone pratiche che possono essere fatte proprie, trasformate, rilocalizzate e da lì ripartire per trovare altre forme di imprenditoria, altre forme di nuove occupazioni. Tutto questo è l'altra Europa, si parte da una bella esperienza, perché insomma quando c'è bisogno e si chiama, magari l'Europa non risponde subito, ma gli europei sì. Setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. We are the reckless, we are the wild. Chasing visions of our futures. Era il Welcome Day per i nuovi Erasmus, ieri l'altro a Benevento, la ragionata proposta da Erasmus Student Network, che conosciamo bene, questa associazione che accoglie e accompagna gli Erasmus. Ma Benevento è stata colpita, come gran parte del sud Italia, da tanta pioggia, da queste alluvioni che hanno veramente distrutto chilometri quadrati della città. Beh, i nuovi Erasmus hanno mandato tutto all'aria, niente festa, ma hanno deciso di festeggiare portando solidarietà. Tutto questo ce lo racconta Maria Carbone, presidente di ESNE Male Ventum. Ciao Maria. Salve, buongiorno a tutti. Allora, una giornata particolare, una giornata storica nel male, ma anche nel bene, no? Nel bene, certo, imprevedibile. Una nota positiva in tante cose negative che sono successe nella nostra città. Intanto, Maria, oggi faccio un po' di cronaca in diretta. La situazione com'è? La situazione sta migliorando, c'è ancora tanto da fare, la gente, i volontari sono ancora per le strade con quello che la protezione civile ha messo a disposizione, stanno cercando di liberare le strade. Diciamo che la viabilità al centro è migliorata, ci sono ancora delle zone un po' più dislocate che hanno ancora bisogno di tanto aiuto, infatti i volontari sono ancora tantissimi. E niente, cerchiamo di riprenderci, è stata comunque una situazione molto negativa per la nostra città, i danni sono stati rilevanti e piano piano si riprende, però ci serve tanto lavoro, tanto volontariato, tanta gente con voglia e spirito di sollevare questa città, la nostra città, Benevento. Certo, l'hashtag Benevento non mollare, che ha accompagnato le tante attività di solidarietà di queste ore, raccontaci però com'è stato avere tutti questi Erasmus in strada a dare una mano in una città, non loro, ma loro, mi permetto di dire questa cosa perché sono stati non bene 20 anni di più, sono stati al nostro fianco, noi come lei ha annunciato avevamo il Welcome Day, era il benvenuto nella nostra città, diciamo che non hanno neanche aspettato il benvenuto e già hanno preso parte alle iniziative, hanno diciamo risposto all'esigenza della città, quindi Diciamo che sono stati fondamentali perché comunque servivano volontari, serviva tanta gente, la situazione era disastrata, loro come se fossero le loro case, come se fossero le loro strade, hanno preso una pala in mano e hanno iniziato a spalare senza mai fermarsi. Ieri siamo stati tutta la giornata, il giorno precedente ancora, tutto il giorno, solo pausa pranzo e poi sempre al lavoro, spalando e anche dando conforto, erano molto solidari anche con la gente stessa, si avvicinavano ovviamente col problema della lingua che avevano, ma cercavano di dare un conforto anche attraverso poche parole che sapevano dire. Una cosa particolare è che comunque hanno pulito, ripulito delle strade e loro ancora non conoscevano nemmeno, sono qui dall'inizio di settembre, quindi c'erano parti di Benevento che non avevano mai visto e che le hanno viste per la prima volta così alluvionate e sono stati più che grandi. Io sono contentissima del riscontro anche che hanno avuto, delle soddisfazioni, del riconoscimento della gente, soprattutto perché la gente è stata molto riconoscente, ha visto lo sforzo, ha apprezzato lo sforzo. Noi come associazione abbiamo fatto di tutto per coinvolgerli, ma non è stato così difficile perché l'iniziativa veniva spesso a loro. Stiamo lavorando per aprire una raccolta fondi anche in collaborazione con SN Italia, che è il nostro network, noi facciamo parte di questo network SN Italia, e ci sta dando sia supporto morale sia vuole essere concretamente utile all'interno del territorio beneventano, quindi apriremo anche noi una raccolta fondi e infatti faccio anche un appello a chiunque voglia aiutare la nostra città sulla nostra pagina Facebook Erasmus Social Network SN Maleventum, troverete il codice IBAN e tutte le coordinate per poter inviare un aiuto diciamo. Certo. Gli Erasmus anche si sono offerti per in prima persona di contribuire anche economicamente oltre che fisicamente. Insomma, una solidarietà vera, in attesa, spontanea, anche questo è l'Erasmus e ci piaceva aprire con queste parole, con questa tua testimonianza, questa puntata dell'Altra Europa. esneitalia.org, esnemaleventum.it invece per l'associazione di Benevento, oppure avete sentito la pagina Facebook. Ciao Maria, in bocca al lupo a te e a tutti i ragazzi Erasmus. Grazie davvero, buon lavoro. Bene, grazie mille, buona diretta. Un abbraccio, ciao. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Mediterranea 17. Attenzione creativi e appassionati di creatività. Dal 22 ottobre la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà Mediterranea 17 Young Artists Biennale, evento internazionale multidisciplinare che vedrà la presenza di 300 creativi under 35 provenienti dall'area del Mediterraneo. Si daranno tutti appuntamento per presentare i loro lavori, realizzati rispettando il tema di questa edizione della Biennale del Mediterraneo, No Foods Land. In mostra tantissimi progetti declinati attraverso diverse forme di espressione, tra cui le arti visive e le arti applicate, la narrazione, lo spettacolo, la musica, il cinema e la gastronomia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito mediterraneabiennial.org. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta L'Altra Europa. You hold the reins on the sun and the moon, like horses driven by king. L'Italia, cuore del patrimonio culturale europeo, accadrà nel 2019, quando Matera sarà capitale europea della cultura, una settimana importante. Il ministro Franceschini ha annunciato lo stanziamento di 28 milioni di euro in 4 anni per Matera capitale europea della cultura 2019, e soldi che appunto dovranno essere utilizzati per trasformare al meglio, meglio ottimizzare quello che già Matera è, per accogliere i turisti, per diventare volano culturale per l'intero territorio. Ma questa settimana, ovvero martedì 13 ottobre all'Università Tor Vergata, si è tenuto un workshop molto interessante: ospitalità diffusa e città della cultura europea, due i casi che hanno portato: La Valletta 2018, Matera appunto in prospettiva 2019. C'è con noi Simone Bozzato, che è coordinatore scientifico del progetto Future of Our Past, col quale vogliamo appunto capire che cos'è questa ospitalità diffusa, perché può diventare un punto di svolta per il nuovo turismo. Buongiorno Simone, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori. Allora, prima ho usato un termine che mentre lo dicevo mi sono pentito, che è trasformare una città per appunto un evento l'anno in cui si è capitale della cultura. Non bisogna trasformare, bisogna probabilmente reinterpretare, rielaborare, creare nuove connessioni in quello che già c'è. Sì, credo che la strada più corretta sia quest'ultima. Soprattutto sono processi molto lunghi. Matera non ha certo iniziato la sua candidatura 2 o 3 anni fa, ma tecnicamente poi ha un tessuto culturale, un tessuto territoriale di tale rilevanza che, come dire, nel suo DNA insita la necessità di una trasformazione, se vogliamo possiamo anche utilizzarlo, sicuramente forse meglio un restyling se vogliamo, che possa portare a far conoscere quel contesto della sua autenticità. Certo. Matera come La Valletta per noi è stato questo un po' lo spunto di un dialogo tra due città che affronteranno questi temi nel dettaglio, l'una nel 2018 e l'altra nel 2019, quindi anche lasciandosi il testimone l'una con l'altra. La logica è vedere quali i grandi progetti che si stanno realizzando e quali le connessioni tra questi progetti, anche come dire gli elementi comuni che portano a una trasformazione autentica delle realtà, non svilendo assolutamente i contenuti identitari di questi contesti. Che cos'è il progetto Future of Our Past? Sì, Future of Our Past è un progetto finanziato dalla Comunità Europea nel canale di finanziamento MPMED e CBC, ed è un progetto che tiene assieme una serie di borghi, una serie di centri storici del Mediterraneo, quindi stiamo lavorando anche su Matera, ma prevalentemente sulla costiera amalfitana, e lavorando nella direzione di vedere come si possa creare un modello di tutela e di valorizzazione dei centri storici del Mediterraneo attraverso uno strumento interessante che è quello dell'ospitalità diffusa e dell'albergo diffuso. Questo progetto ha una parte attuativa molto importante che vedrà tra il mese di novembre e dicembre la realizzazione di un albergo diffuso a Betlemme, 70 stanze che verranno messe a disposizione del turismo internazionale, ma sempre partendo dalla volontà di non trasformare assolutamente i contesti, ma di renderli attori dei cambiamenti territoriali. Quindi noi crediamo in un albergo diffuso che non sia impresa esterna rispetto ai luoghi, ma che veda coinvolti i cittadini e che veda attori turistici i cittadini stessi. Ecco, quando si parla di albergo diffuso è una rete di B&B o sono famiglie che aprono i propri spazi per accogliere i turisti? Ci sono varie scuole di pensiero in questo momento a riguardo, nel senso che esistono sicuramente delle reti di B&B che creano appunto questo sistema a rete che permette di avere una buona comunicazione all'esterno e danno spesso anche un'ottima autenticità rispetto ai luoghi. Noi crediamo più però nella seconda dimensione, cioè nell'idea che un contesto locale possa avere degli interlocutori, delle piccole aziende che nascono intorno proprio alle diverse famiglie, che mettono a disposizione gli spazi interni alle proprie strutture, creando anche strutture di vita, creando anche delle azioni integrate a livello economico. Penso al caso di molti contesti del Sud Italia, in questo momento sono a Cisternino, sì. Una realtà come questa in Puglia vede possibilità di economie integrate tra l'agricoltura, il sistema rurale e il sistema turistico. Entrambe le cose fanno parte di una filiera economica unica, se si vuole, purché tutto questo però faccia riferimento a un tema fondamentale sul quale crediamo tanto ed è l'elemento essenziale dei nostri progetti: il tema geografico, il tema della territorialità. Non svilire mai quei contesti, ma fare il massimo affinché diventino elemento anche economico attraverso un sistema di valorizzazione realmente autentico. insomma, quindi un passaggio anche culturale, sociale decisivo. futurehourpast.eu, questo è il portale per conoscere l'intero progetto, ma ci ritroveremo sicuramente bozzato prossimamente per capire appunto queste idee come vanno a concretizzarsi. Buon lavoro e grazie, buona giornata. Grazie a voi, spero di rincontrarvi presto. Ci teniamo. Europost-it. Udine al centro dell'Europa multilingue con SUNS. A Udine, dal 25 novembre all'11 dicembre, torna SUNS, Festival della canzone in lingua minoritaria, ponte tra le minoranze linguistiche dell'Europa centro-meridionale. L'appuntamento sarà aperto con la mostra del cinema che si terrà, come da tradizione, al Cinema Visionario di Udine dal 25 al 28 novembre e consisterà in una panoramica sulle più recenti produzioni audiovisive nelle lingue minoritarie europee. Si proseguirà poi con numerosi concerti, reading, conferenze e dibattiti. A chiudere il festival, l'11 dicembre a Udine, ci sarà una grande sfida tra artisti e gruppi provenienti da tutta Europa. Per consultare il programma di SUNS Europe, visitate il sito sunscontest.com. Ya llegó el gran circo místico, llegó. Ya llegó el gran circo místico, llegó. Nuevos dioses a la puerta de un nuevo ciclo, y la puerta solo está como medio abierta. Dios siempre erra, pero a veces acierta, y la soledad es todo lo que nos resta, que nos resta más, que nos resta. Tutti al circo, è quello che sta accadendo in questi giorni a Chiaramonti. Siamo in provincia di Sassari con un progetto europeo e finanziato dal programma Erasmus Plus. Sono 36 partecipanti da 8 paesi diversi: Polonia, Croazia, Slovenia, Danimarca, Estonia, Francia, Spagna e Italia, per apprendere quella che è la pedagogia circense e utilizzarla poi in nuovi programmi e contesti sociali ed educativi. Ne parliamo con Marcello Contu, coordinatore del progetto. Ciao Marcello. Buongiorno a tutti. Come mai avete scelto il circo? Il circo l'abbiamo scelto perché è un potentissimo strumento per arrivare laddove le altre alcune altre attività che si svolgono normalmente non arrivano, quindi puoi lavorare con i giovani, con i bambini, con i più anziani, è un forte strumento di inclusione sociale, diciamo, in generale. Ma ti faccio subito una domanda, state lavorando da qualche giorno con artisti, sono artisti quelli che stanno partecipando al progetto o sono educatori? Sì, in realtà abbiamo selezionato persone che non avevano esperienza circense, diciamo, appunto perché è un corso focalizzato più che sulla tecnica, sulla base pedagogica, quindi come insegnare e trasmettere l'arte circense e come inserirla nei programmi educativi. Quindi sono, diciamo, lavoratori sociali che fanno altro e vogliono apprendere l'arte circense per poi portarla nel loro paese d'origine e lavorarci. Certo, quando parliamo di Europa cerchiamo sempre linguaggi comuni, il circo è un linguaggio comune. Esatto, sì. Assolutamente. Sta aiutando. E quali sono le reazioni, appunto, dopo 4-5 giorni di workshop? Come sta andando? Beh, intanto oggi, in concomitanza col corso, oggi c'è il Sonart Festival, che è la seconda edizione, ok, a Chiaramonti, sempre in provincia di Sassari, organizzato dalla Consulta Giovanile di Chiaramonti. E insomma, ci siamo inseriti dentro questo festival, per cui adesso, giusto adesso, ci sono le prove generali. Insomma, siamo riusciti a costruire un mini show e lo presenteremo dentro il festival. Quindi, insomma, molte emozioni, molte cose questa mattina. Ascolta, al di là invece del circo, vi sarete confrontati anche voi proprio sul tema dell'educazione, sul tema della pedagogia. Hai notato molte differenze da nazione a nazione o ci sono comunque visioni comuni? ci sono visioni comuni e ci sono differenze, però il bello è quello, no? Immaginati che siamo in un paese di 1200 abitanti nel cuore della Sardegna, che ha deciso di ospitare 36 partecipanti da tutta Europa, e ovviamente ci sono differenze, che ne so, tra Estonia, Italia, Spagna, paesi più mediterranei, paesi più nordici, però insomma è anche bello vedere come poi il circo riesca a unire tutte queste diversità. Ecco, per un paesino di poco più di 1000 anime nel cuore della Sardegna, l'Europa cosa rappresenta in questo caso? Una opportunità, una cosa lontana da spremere e basta, o comunque l'avete vissuta appunto come attrice, come possibilità per costruire qualcosa? Beh, senz'altro, sì, anche perché lo scopo del progetto è appunto apprendere le basi circensi per poi portare dentro i programmi educativi, però non solo, poi ci sono un sacco di competenze trasversali che fuoriescono nel corso di una settimana, per cui si sono create anche delle reti di scambio di conoscenza, ma anche di progettazione futura, quindi si sta già pensando di creare insieme dei progetti. Perfetto, grazie davvero. C'è un sito internet di riferimento per... Per ora no, abbiamo puntato più alla promozione tradizionale cartacea e a un DVD finale che consegneremo alla popolazione di Chiaramonti e a tutti i partecipanti. Perfetto, quindi insomma dovete andare lì. Esatto, questo weekend c'è il Festra, quindi cogliete l'occasione. Grazie davvero Marcello, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ciao. Un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Esperti di fotonica. La Commissione europea è alla ricerca di esperti indipendenti nel campo della fotonica che forniscano assistenza per le attività di ricerca e innovazione, compresa la valutazione di proposte, il monitoraggio di progetti e la valutazione di programmi. In particolare, l'unità di fotonica è alla ricerca di figure esperte nelle aree di laser a servizio dell'industria manifatturiera, biofotonica, sensori fotonici, circuiti fotonici integrati, illuminazione a LED, display, comunicazioni ottiche e dispositivi indossabili fotonici. Per candidarsi è necessario iscriversi al database di esperti della Commissione europea nella sezione Database of Experts del sito ec.europa.eu, indicando la fotonica come campo di attività e specificando la particolare area di esperienza. L'altra Europa. Sen bulma gisma dire nga fokh ni xamuma li nek ci sama sou ak sigin beguma kuma xol dal dine yow li nek ci yow mo nessi man li nessi moy di len jappal. Ancora buon sabato da Federico Taddia, chiocciola Federico Taddia su Twitter e su Facebook, oppure chiocciola Euronet Plus R24, le nostre coordinate per seguirci virtualmente e trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Tutto ciò poi lo potrete scaricare direttamente dal nostro sito radio24.it. È una puntata che guarda in modo particolare ai progetti europei, ma è una puntata che mette in forte connessione l'Europa con il sud d'Italia, perché anche il prossimo progetto che andiamo a conoscere si sta svolgendo in meridione, in particolare a Melpignano, siamo in provincia di Lecce. Il progetto si chiama Scarabeu e ne parliamo con Valentina Avantaggiato, vice sindaco di Melpignano e coordinatrice del progetto stesso. Buongiorno Valentina. Salve, buongiorno a tutti. Cosa sta accadendo in queste ore a Melpignano? Ma siamo stati, diciamo, invasi da, anzi, un'invasione pacifica e coloratissima di 40 ragazzi, anzi 32, provenienti da 4 paesi differenti dell'Europa, Spagna, Polonia e Grecia, e per un progetto appunto che prevede una serie di attività legate a processi di partecipazione attiva, buone pratiche legate a formule di democrazia sostenibile, rivalutazione di luoghi in disuso, multiculturalità ed interculturalità. Mm-hmm. È un progetto che abbiamo attivato insieme all'associazione SAFE di Lecce, che si occupa appunto di progettazione europea e ha già fatto altri scambi in questo senso, ed è un progetto che abbiamo voluto fortemente perché... Perché infatti è questo anche che mi interessa, perché un'amministrazione decide di investire tempo e risorse in un progetto di questo tipo? Qual è l'incipit? Beh, allora, io credo che sia un dovere in realtà di un'amministrazione fare un progetto del genere, perché è una porta che si apre a quella che è la tua cittadinanza, soprattutto i più giovani, soprattutto chi non ha la possibilità di viaggiare verso l'Europa, appunto. Siamo cittadini europei e l'amministrazione ha il dovere di creare le condizioni perché tutti diventino cittadini europei. Partendo da questo, in realtà noi quando siamo insediati a giugno, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cercare appunto di mandare fuori attraverso questi progetti i nostri ragazzi. Sì. I tempi non ce l'hanno permesso perché appunto servono anche una progettazione, quindi hanno tempi un po' più lunghi, per cui appena c'è stata l'occasione di poterli accogliere qui non abbiamo pensato minimamente di tirarci indietro, nonostante appunto sia un investimento di denaro che di risorse proprio anche fisiche e materiali. Creatività, cittadinanza, partecipazione, integrazione sono le quattro parole chiave di questo progetto. E come sta andando? Qual è, allora, la reazione dei ragazzi? Sì. Sta andando molto bene, perché al di là della timidezza iniziale dei ragazzi che partecipano, le difficoltà magari legate alla conoscenza dell'inglese, perché comunque purtroppo anche il nostro sistema scolastico non è una lingua alla quale si presta molta attenzione, anzi l'insegnamento di questa lingua non si presta molta attenzione, però è molto bello vedere anche poi la sera come i ragazzi interagiscono con la comunità, con tutte le fasce della comunità, dagli anziani che vengono coinvolti nelle attività pomeridiane sia per diciamo l'insegnamento delle nostre pratiche enogastronomiche che anche semplicemente per chiedere delle informazioni, ai ragazzi più giovani che magari non partecipano all'attività ma si avvicinano la sera e insomma, iniziano a dialogare con appunto gli stranieri, no? Tra virgolette. Quindi in realtà è molto positivo. Mm-hmm. Ed è molto positivo anche il fatto che stiano facendo delle attività tutte insieme legate anche all'interculturalità, soprattutto in questo periodo storico in cui in realtà come Europa ci troviamo ad affrontare il tema dell'immigrazione, però non tutti abbiamo le stesse posizioni. Insomma, e quindi insomma un confronto costruttivo importante e costruttivo. Safe.eu è il sito del progetto, oppure sì. comune.melpignano.le.it ovviamente il sito del comune. Complimenti per la scelta del nome, perché Scarabeo contiene qualcosa di geniale, sì, dentro, e mi piace molto. Grazie davvero Valentina, un saluto a tutti i ragazzi partecipanti al progetto. Grazie a voi per l'opportunità. Buona giornata. Arrivederci. Europost-it. Tirocinio a ILGA. Ti piacerebbe fare un'esperienza lavorativa nel campo dei diritti civili? La ILGA, Associazione Europea per i Diritti LGBTI, cerca un tirocinante per 5 mesi a partire da dicembre 2015. Lo stage sarà retribuito e la sede di lavoro sarà Bruxelles. Il tirocinante assisterà il team dell'Associazione Europea ILGA nell'analisi della situazione dei diritti omosessuali dei vari paesi europei, nella raccolta di casi e atti processuali e campagne per i diritti, nella ricerca di esempi e buone pratiche. Il candidato dovrà avere eccellenti capacità di ricerca, una buona conoscenza in materia di diritti umani e una comprovata esperienza nel settore della comunicazione. Le candidature in lingua inglese dovranno essere inviate entro l'8 novembre alla sezione Job Opportunities del sito ilga-europe.org. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Beh, insomma, vi ho detto pochissimo fa che sarebbe stata una puntata molto centrata su questo strettissimo rapporto tra Sud Italia ed Europa, e arrivano anche importanti riconoscimenti. Per esempio è Diritti a Scuola il progetto della regione Puglia, asse terza inclusione sociale, vincitore di Regio Stars 2015, il premio organizzato dalla Commissione Europea e che individua i migliori progetti a livello regionale finanziati nell'ambito dei fondi della politica di coesione dell'Unione. Un progetto significativo, un premio molto importante, perché insomma la selezione è tanta ed essere scelti è veramente un privilegio. Di tutto ciò ne parliamo con Giulia Veneziano, Project Manager della candidatura di diritti a scuola a Reggio Star e responsabile dell'asse 3 inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo Regione Puglia. Buongiorno Veneziano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siete felici, immagino. Sì, molto molto felici, perché il Premio Reggio Stage evidenziano come l'integrazione nella società delle persone a rischio di esclusione sociale sia una priorità della strategia europea per una crescita inclusiva. E quindi siamo molto soddisfatti del riconoscimento per questo grande sforzo che la Regione Puglia sta effettuando. Certo. E che ha effettuato con la programmazione appena conclusa 2007-2013. I vincitori sono stati annunciati pochi giorni fa a Bruxelles dalla commissaria europea Corina Cretu, ma in parte ve l'aspettavate, in parte qual è la ricaduta, al di là immagino l'entusiasmo, ma anche insomma un riconoscimento del lavoro fatto, che poi è un punto di partenza, non tanto un punto d'arrivo, immagino. Certamente c'è molto lavoro ancora da fare, perché il problema della dispersione, dell'abbandono scolastico è un problema che comunque non è risolto, per cui abbiamo iniziato mettendo un tassello alla risoluzione del problema, ma molto altro, molto cammino va fatto ancora. Mm-hmm. Qual è secondo lei il punto di forza di questo progetto? Ma il punto di forza è che questo è un progetto sperimentale e innovativo, perché punta ad un approccio preventivo ai temi della dispersione e dell'abbandono. Infatti sono interventi rivolti agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado, sì, e al biennio delle scuole secondarie di secondo grado, in quanto si ritiene, cioè la bussola orientativa per guidare queste scelte strategiche sono state proprio la considerazione che in quel segmento formativo, quindi dell'età 6-15 anni, che si creano le condizioni che favoriscono i successivi fenomeni di estraneità ad ogni percorso formativo. Mm-hmm. E dunque questo, quindi l'approccio innovativo sta in questo, in ritenere questa cosa qui. Certo. E quindi è un progetto anche che credo sia uno dei valori aggiunti, poi soprattutto anche di queste iniziative, al di là del premio. È un progetto replicabile in altre situazioni, in altri luoghi, in altre realtà? Certamente, sì, è replicabile, e la replicabilità del progetto è stata anche evidenziata nel 2012 al comitato di sorveglianza della Commissione Europea, che l'ha ritenuto come una best practice già dal 2012. Quindi best practice significa proprio che hanno ci sono degli elementi di sostenibilità, di innovazione e soprattutto di replicabilità anche in altri contesti. Mm-hmm. Questo appunto è fondamentale, anche perché alla fine l'Europa è questa, no? Le buone pratiche devono girare, insomma è inutile chiudere nel proprio orticello, non serve a nessuno. Grazie davvero, complimenti. fse.regione.puglia.it per le informazioni, mi dica. No, volevo dire che il progetto era orientato a colmare le lacune in italiano e in matematica, e poi però proprio con questo, partendo insomma dalla premessa che ho fatto, sì, si è cercato di, quindi avvalendosi di personale aggiuntivo, si è innovato con l'aggiunta di una maggiore attenzione verso le condizioni di svantaggio economico, psicologico, culturale e sociale, che possono sempre più caratterizzare il contesto scolastico e che presentano maggiori criticità e rischi per quanto riguarda la dispersione scolastica. Quindi si è attivato, accanto ai progetti per il recupero delle lacune, anche un progetto di consulenza psicologica, di orientamento scolastico e professionale, di mediazione interculturale in favore degli studenti e delle loro famiglie, con un focus particolare proprio agli studenti svantaggiati o appartenenti a famiglie disagiate. E questo, insomma, la scuola che giustamente guarda fuori da se stessa e incontra, va incontro alle famiglie. Grazie davvero Veneziano, complimenti a tutto lo staff che ha lavorato al progetto, in bocca al lupo. grazie mille, buon sabato. Buona giornata. Un Europostit, le informazioni del traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Stage retribuito all'Assemblea delle Regioni. Ti piacerebbe fare un'esperienza lavorativa di 6 mesi a Bruxelles o Strasburgo? Allora non perdere l'opportunità di candidarti per uno stage all'Assemblea delle Regioni Europee. L'Assemblea delle Regioni è la più grande rete indipendente di regioni in Europa e rappresenta più di 270 regioni di 33 paesi dell'Unione. Fondata nel 1985, è composta da un'assemblea generale, un consiglio esecutivo e un ufficio di presidenza. Lo stage è retribuito e offre l'opportunità di approfondire la conoscenza dell'ente, di sviluppare le proprie capacità relazionali e di migliorare la conoscenza delle lingue straniere. I candidati dovranno avere un interesse per la politica europea, oltre a un'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale e una buona conoscenza del francese o del tedesco. Per saperne di più, visita la sezione opportunità di lavoro del sito aer.it. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta L'altra Europa. Abbiamo aperto questa puntata dell'Altra Europa con gli studenti Erasmus che ripulivano le strade di Benevento, e la chiudiamo con gli studenti Erasmus che ritornano dopo la loro esperienza e riportano alla cittadinanza ciò che hanno respirato, ciò che hanno appreso, le contaminazioni culturali in cui si sono immersi, in questo caso contaminazioni musicali. Tutto ciò accade ieri, oggi e giovedì, forse sì, dal 15 al 17, quindi si chiude oggi la rassegna a Salerno con questa 3 giorni di musica intitolata Erasmus on Stage presso la chiesa Santa Polonia. Ne parliamo con Anna Bellagamba, docente del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno e coordinatrice delle relazioni internazionali. Buongiorno Bellagamba. Buongiorno a voi. Questa musica tra l'altro la riconoscete, vero? Credo che ieri sera abbia caratterizzato la serata. Certo. Che cos'è Erasmus on Stage? Erasmus on Stage è una rassegna che è nata 4 anni fa, questa è la 4ª edizione, è nata nell'anno celebrativo dei 25 anni del programma Erasmus, proprio come un modo per celebrare questo programma che ormai è diventato famoso, certo, anche presso i non addetti ai lavori, e che per noi musicisti rappresenta qualcosa di innovativo, ma anche, diciamo, di noto, perché da sempre i musicisti hanno viaggiato, i musicisti si sentono europei da molto prima che il programma Erasmus arrivasse nelle università, perché la musica è un linguaggio universale, quindi i nostri ragazzi che vanno all'estero si trovano nella favorevole condizione di parlare già una lingua comune, di avere un canale diretto di espressione con i loro coetanei, con gli altri studenti, con i professori, quindi di trovarsi già in possesso di un mezzo linguistico avanzato in grado di comunicare cose. Forse questo è l'aspetto più singolare del programma Erasmus applicato ai conservatori di musica, così come la stessa cosa accade per l'Accademia di Arte Drammatica. Perché adesso faccio una domanda banale e non da detto ai lavori, ahimè, comunque i ragazzi, gli studenti del conservatorio possono partecipare? Sì, all'Erasmus. Da quando il conservatorio è entrato a pieno titolo nel sistema universitario e nel sistema del cosiddetto di Bologna, del processo di Bologna europeo, sì. Uh-huh. Per cui si è adeguato alla normativa dell'alta formazione europea, quindi ha trasformato i suoi tradizionali corsi che erano dei corsi, i corsi di vecchio ordinamento del conservatorio, ma accompagnavano i bambini dalla tenera età fino al diploma con un unico percorso. Invece adesso c'è un percorso superiore che è organizzato come università in un triennio, quindi in laurea di primo livello, diplomi accademici di primo livello e diplomi accademici di secondo livello, quindi che corrispondono alla laurea magistrale. Perfetto. E da quando la riforma della legge 508 si ha transitato a pieno titolo nell'alta formazione, anche i nostri studenti possono partecipare, accedere ai fondi comunitari per il programma Erasmus, e il Conservatorio di Salerno è tra quelli, diciamo, che ne approfittano più largamente. Questo è importante. E Bragam, sì. Abbiamo un minuto, ci sintetizza quello che sta accadendo in queste tre giornate? Sì, questi tre giorni, questa breve rassegna, è un momento in cui i ragazzi che sono stati in mobilità, che hanno trascorso il precedente anno accademico all'estero per studio o per tirocinio per lavoro, quindi tornano e vogliono mettere in comune con il resto del conservatorio, ma proprio con la cittadinanza, quello che è stato per loro a livello di apprendimento, ma anche a livello di immersione in un mondo culturale completamente diverso, per cui vivere un anno all'estero è, come tutti sanno, come è noto, una immersione totale in un mondo diverso. Questo è il motto del programma Erasmus, che dice che il programma Erasmus cambia la mente, cambia la vita e apre la mente. Questo è quello che accade ai nostri ragazzi, che loro vogliono testimoniare facendo proprio vedere come l'esperienza all'estero ha cambiato il loro modo di suonare. E portano di fatto la musica del paese che li ha ospitati. Generalmente sì, ad esempio la nostra serata di apertura è stato un viaggio nel jazz scandinavo, dei nostri ragazzi che sono stati là e hanno imparato diversi modi di comporre, di scrivere musica, che ha influenzato profondamente il loro stile e quindi hanno voluto fare sentire come adesso loro intendono e vivono la musica. Una bellissima esperienza, un bellissimo modo per riportare e restituire a una collettività la propria esperienza. Sì. Con salerno.com, il sito del conservatorio, per conoscere l'intero progetto e l'intero programma. Grazie davvero, bella gamba. Grazie. Complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze coinvolte. Buon lavoro. Arrivederci. E con questo chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Gianmarco Ferronato e Claudia Scattone in assistenza durante la diretta, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che hanno collaborato alla scrittura di questa puntata. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo. Ci ritrovate online radio24.it per poter riascoltare la puntata. Chiocciola Federico Taddia se volete trovarmi su Facebook e su Twitter. Ancora ciao, ancora buon sabato. L'altra Europa. Collaborazione con Euronet Plus.